Professore, con la firma di questa sera nasce la nuova Alitalia. È soddisfatto di questi lunghi mesi di lavoro? Assolutamente. Viva l'Italia che è nuova, si diceva una volta le Leroy est mort, vive Leroy. E quindi viva il re, viva l'Italia. È stato un grande lavoro, io credo di essere soddisfatto. Adesso mi devo concentrare sui creditori perché le facce sono due. L'una era il servizio pubblico, qualche sofferenza gli utenti l'hanno avuta, abbiamo cercato di ridurle al minimo, però non abbiamo messo gli aerei a terra, non abbiamo interrotto il servizio, abbiamo rispettato la legge. Io vorrei cercare di rispettarla anche nell'altra faccia, e cioè la tutela dei creditori, la par condicio dei creditori, tra questi degli obbligazionisti. E se sarà possibile, ma dipenderà dal Ministero dell'Economia, degli azionisti. Questo adesso è il mio compito e vorrei uscire come dire, dai media e tornare a un lavoro molto semplice e oscuro. Ecco, lo Stato alla fine di tutto ci ha perso, ci è andato a pari in questa operazione. Ma guardi, io sono conti difficili da fare. Onestamente, tutti i giorni facciamo questi esercizi. Io non so. Come sarebbe stato il caso Air France realizzato? Il caso Air France non è stato realizzato, questo è stato realizzato. I conti si fanno sempre dopo. È difficile farli, non lo voglio fare e non voglio fare paragoni perché non spetta a me. Io mi sono trovato in una situazione e ho gestito quello che avevo. Credo che sia stato oneroso, ma l'Alitalia era onerosa per gli italiani da tanti anni. Credo che sia stato bene porre fine a questa onerosità, credo che sia stato un bene dare la possibilità alla nuova società di crescere e di sviluppare, e io sono sicuro che questo avverrà. È un giro di boa, secondo me, positivo per il Paese. Stoppare una perdita è sempre positivo.